Oggi avete inaugurato il primo rigassificatore offshore. Allora partiamo proprio da qua. Che cosa significa offshore e soprattutto qual è il ruolo che questo strumento, che questo rigassificatore avrà nel sistema del gas italiano? Offshore vuol dire che è in mezzo al mare, difatti ci troviamo a 15 km dalla costa. L'abbiamo costruito così lontano dalla costa proprio per ridurre l'impatto ambientale, infatti dalla costa non si può vedere. Cos'è un rigassificatore? È una fabbrica che permette di portare il gas che viene trasportato a meno 162 gradi alla temperatura normale, quindi il gas a meno 162 gradi e allo stato liquido, viene riportato allo stato gassoso e reimmesso attraverso un processo chimico nella rete di distribuzione nazionale del gas. Perché si liquefa il gas? Beh, perché i giacimenti del gas sono molto lontani dai paesi di consumo. A volte i gasdotti normali non bastano, sono troppo lunghi da costruire, sono troppo difficili da costruire. Allora bisogna liquefare il gas con un procedimento appunto che ne comprime molto la dimensione e portandolo a meno 162 gradi lo riduce allo stato liquido, viene portato su una nave gasiera e viene portato a questi terminali che rigassificano appunto il gas. Al di là del vantaggio e del superamento delle distanze, qual è il vantaggio del rigassificatore? C'è per il sistema paese una maggiore flessibilità nell'approvvigionamento del gas? Questo è il vantaggio fondamentale dei rigassificatori. I gasdotti tipici sono rigidi perché danno un collegamento punto a punto tra paese produttore e paese consumatore. Il rigassificatore permette di importare gas da una pluralità di paesi produttori di gas, sempre che ci siano degli impianti di liquefazione nei paesi di origine. Il nostro rigassificatore ha un contratto di lungo termine con il Qatar, che fornirà la grande maggioranza del gas. Su 8 miliardi di metri cubi, 6,4 sono per la Edison e arriveranno dal Qatar. Il rimanente 20% è aperto al pubblico, quindi aumenterà la concorrenza sul mercato italiano, altri operatori potranno importare gas utilizzando il nostro rigassificatore. Quanti soldi sono stati investiti per costruire questo rigassificatore? Beh, molti, parliamo di circa 2 miliardi di euro, è una cifra imponente, è un costo superiore a quello di un rigassificatore basato sulla costa nel mare. Teniamo conto però che è un prototipo, è il primo rigassificatore al mondo offshore e quindi ha tutti i costi di un prototipo. Si è fatta molta esperienza su questo progetto e sono sicuro che dal prossimo i costi scenderanno e diventerà ancora più competitivo. È stata costituita una società per far funzionare il rigassificatore, voi avete una percentuale di minoranza all'interno di questa società, ma avete invece la maggioranza del gas prodotto dal rigassificatore. Proprio così, le due società che producono il gas, ExxonMobil e Qatar Petroleum in Qatar, hanno anche la maggioranza del rigassificatore, quindi controllano buona parte della catena di distribuzione del gas. Però noi abbiamo l'80% del gas che verrà rigassificato attraverso questa struttura e quindi avremo 6,4 miliardi di gas disponibile a partire dall'anno prossimo. Farete altri rigassificatori? Ma noi abbiamo un secondo progetto a Rosignano, in Toscana, che attende ancora l'autorizzazione. Oltre ai rigassificatori siamo molto attivi nella progettazione dei nuovi gasdotti. Cito due progetti, il Galsi, che unirà l'Algeria alla Sardegna e attraverso la Sardegna alla Toscana, che porterà nel 2012 8 miliardi di metri cubi di gas algerino all'Italia, progetto che è molto avanzato e quindi ha un elevato grado di fattibilità. E l'altro progetto che voglio citare è l'IGI, l'interconnessione tra Italia e Grecia e attraverso la Grecia, la Turchia, la Georgia e l'Azerbaijan, che dovrebbe collegare i campi di gas del Mar Caspio all'Italia, aprendo una nuova rotta del gas, così come il nostro rigassificatore che abbiamo inaugurato oggi apre un'altra rotta del gas nuova dal Qatar all'Italia. Senta, il gas che viene prodotto da questo rigassificatore a quali usi verrà destinato? Innanzitutto alle nostre centrali, noi siamo grandi consumatori di gas, oggi compriamo gas in Italia, compriamo gas anche a livello internazionale e quindi sostituirà gas che oggi viene acquistato in Italia. E poi alle imprese, alle famiglie, noi distribuiamo gas alle imprese e alle famiglie. In questi anni abbiamo avuto una carenza di gas come tutti gli operatori italiani. L'importazione era limitata dalle infrastrutture esistenti e quindi la domanda cresceva ma non potevamo soddisfarla. Oggi con questo gasificatore e con il potenziamento dei gasdotti esistenti avremo maggiori quantitativi di gas per competere sul mercato italiano. Questo per quanto vi riguarda. Per quanto riguarda il sistema paese? Il sistema paese sicuramente ne beneficerà sotto vari aspetti. Innanzitutto ricordiamo tutti che negli ultimi 3 anni c'è stato il rischio di un blackout o di una carenza di gas nei periodi di punta invernale. Questa infrastruttura e appunto i potenziamenti dei gasdotti algerino e russo scongiureranno questo pericolo già a partire da questo inverno. La situazione sarà normalizzata e sicuramente dal prossimo inverno la situazione sarà tornata ad un livello di totale sicurezza. Quindi prima di tutto sicurezza degli approvvigionamenti. Secondariamente diversificazione delle fonti e quindi ripartizione del rischio. Noi siamo collegati alla Russia, all'Algeria, alla Libia e al Mar del Nord, quindi 4 tubi collegano l'Italia ai grandi paesi produttori. Questo è una nuova rotta del gas che quindi riduce il rischio geografico. E poi, lasciatemelo dire, maggiore concorrenza. Questa è la prima infrastruttura fatta non dall'operatore tradizionale che fino adesso ha fornito il gas all'Italia. Quindi maggiore concorrenza vuol dire vantaggi per tutti, consumatori, industrie e produttori di energia elettrica.